e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a tutti, ben ritrovati a Cuore e Denari da Deborah. E da Nicoletta. Eccoci qua. Allora, naturalmente un pensiero alla tragedia pugliese, non potevamo non rivolgerlo anche noi, ovviamente lo sapete, ci state ascoltando già da ieri, tutti i colleghi della nostra redazione sono mobilitati per raccontarvi le novità minuto per minuto, il bilancio delle vittime lo sapete molto alto, ora tutta l'attenzione è puntata sulla ricostruzione delle cause dell'incidente, ma intanto noi ci occupiamo dei due aspetti che ci sembravano più coerenti con il taglio del nostro programma. Allora, intanto vi segnalo subito che i colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno, che abbiamo anche sentito questa mattina, si sono attivati con una sottoscrizione a favore dei feriti e delle famiglie delle vittime appunto della tragedia ferroviaria di ieri. Adesione immediata c'è stata da parte della Banca Popolare di Bari, di Telenorba, di Radio Norma e di Confindustria Bari. Vi diamo il codice IBAN, sappiamo che è un codice molto lungo, pertanto ve lo riporteremo anche sulle nostre pagine, le pagine di Cuore Denari sul profilo Facebook. Naturalmente io ve lo leggo velocemente, sarà difficile prendere nota, però intanto magari qualcuno di voi ce la fa. Il conto è aperto presso la Banca Popolare di Bari, l'IBAN è IT 56 L0 54240 400 00 00 00 25 00 107. La causale è sottoscrizione a favore delle famiglie delle vittime dello scontro fra treni il 12 luglio 2016, un'altra data che non dimenticheremo facilmente. Come vi ribadisco, appunto, lo segnaleremo sui nostri profili Facebook e Twitter di Cuore Denari, ma intanto, Nicoletta, la solidarietà delle persone in queste ore drammatiche si è vista in maniera ancora più evidente in un campo di cui parliamo molto spesso qui a Cuore Denari, vero? Sì, parliamo di donazione del sangue. La tragedia ha innescato immediatamente una gara di solidarietà. Pochi minuti dopo l'invito dei medici ad andare a donare, si stavano già eseguendo i primi prelievi. I centri trasfusionali di Barletta, Andria e Bari sono stati presi letteralmente d'assalto e al policlinico del capoluogo pugliese si è formata una coda di donatori così lunga che è stato necessario distribuire i numerini per stabilire l'ordine. Di fronte al bisogno, gli italiani dimostrano come sempre un cuore grande e intanto noi salutiamo il dottor Giancarlo Maria Liumbruno, che è direttore del Centro Nazionale Sangue dell'Istituto Superiore di Sanità, che abbiamo il piacere di avere con noi in linea. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Intanto, al momento siete riusciti a raccogliere il numero di sacche necessarie per sopperire all'emergenza sangue delle ultime ore? Sì. Le strutture trasfusionali della Regione Puglia sono state in grado di gestire completa autonomia il fabbisogno trasfusionale, un fabbisogno trasfusionale, come avete già detto, straordinario e legato a questo tristissimo evento. Non c'è stato quindi alcun bisogno di attivare piani di mobilità dalle altre regioni. Abbiamo da poche settimane in vigore un piano nazionale per la gestione delle maxi emergenze, che è stato approvato con un accordo di conferenza Stato-Regioni. Abbiamo allertato le regioni che avevano scorte disponibili per le maxi emergenze e in particolare queste scorte di sangue, se fossero state necessarie, sarebbero provenute dal Lazio e dalla Campania, che sono le regioni più vicine, limitrofe, però certo. avevamo disponibilità in regioni molto lontane come il Veneto e come la provincia di Bolzano. Sì. Ma ripeto, l'ondata di solidarietà è stata straordinaria e le strutture hanno sofferito con quello che avevano, certo, e con quello che hanno. Perché rapporto. Direttore, i cittadini, come abbiamo ricordato, hanno risposto con grande solidarietà, hanno dimostrato anche una straordinaria capacità di organizzazione nella gestione delle emergenze, i risultati sono arrivati, ma ci chiediamo, se non ci fosse stata questa risposta da parte della popolazione, che cosa sarebbe successo? Perché noi sappiamo che di sangue ce n'è sempre bisogno, che l'estate è una stagione critica, ma è lecito chiedersi se l'appello ad andare a donare sia un segnale di un'emergenza sangue nel nostro paese. Sì, capisco la domanda. In effetti il di sangue ce n'è sempre bisogno, però il sistema trasfusionale, il sistema sangue nazionale è un sistema governato che si basa su attori come le associazioni del volontariato del sangue, che sono fatte da volontari, però è un volontariato organizzato, quindi i fabbisogni trasfusionali trovano risposta regolare e quotidiana nelle donazioni che sono programmate. In caso di eventi straordinari si attiva la catena della solidarietà, ma è una catena che è comunque governata dal mondo del volontariato e dalle strutture trasfusionali per porre diciamo un freno, fra virgolette, quando poi l'emergenza cessa. E come ho detto prima, in aggiunta per i fabbisogni straordinari c'è un piano nazionale per la mobilità di sangue per le maxi emergenze. Quindi è un mondo del volontariato, ma è un volontariato organizzato, quindi la donazione viene fatta quando è richiesta, ed è richiesta sulla base dei fabbisogni che sono programmati. Per lo straordinario ci sono appunto cioè la solidarietà, l'organizzazione e il piano nazionale. Quindi ai donatori all'ascolto, qual è il messaggio direttore vuole dare? Ma sì, il messaggio è un messaggio semplice, ai donatori all'ascolto, ma anche a coloro che aspirano a diventare donatori, e che io sono sicuro che sono molti, soprattutto in questo momento. Sì, attivati da queste tragedie, si capisce quanto sia prezioso, utile donare sangue. Il messaggio è questo: dunque, l'Italia innanzitutto è un paese autosufficiente totalmente per il sangue. Chi aspira o vuole donare sangue si metta in contatto con le associazioni del mondo del volontariato del sangue, ovvero Avis, Fidas, Fratres e Croce Rossa, e con loro pianifichi il dono del sangue e il dono del plasma, in modo tale che esso vada diciamo giunga nel momento e nel luogo, nella struttura dove c'è il fabbisogno in quel momento. Quindi donazione sì, ma soprattutto pianificata e organizzata. Perfetto, vedo che il messaggio è arrivato forte e chiaro. Ecco, e subito un ascoltatore ci scrive perché si è attivato, si vede che sta accarezzando un po' l'idea di donare, ma dice: ho fatto un tatuaggio il 2 aprile, quando posso tornare a donare? Ci scrive Gabriele. Dottor Liumbruno. C'è un breve periodo di sospensione che è 4 mesi, quindi bisogna aspettare ancora un pochino. Allora ricordiamo rapidamente, prima di dare la linea naturalmente al nostro traffico, quali sono le caratteristiche per poter donare. Sicuramente la maggiore età, i 18 anni, ma dottore? Certo, età fra 18 e 65, ma 65 non è più un limite rigido, perché sappiamo che l'età anagrafica e l'età biologica non vanno di pari passo, quindi si può andare anche oltre fino ai 70 e essere in buona salute. Questo è il requisito principale. Ovviamente poi ci sono dei medici addetti alla selezione che sono proprio lì per far sì che l'atto della donazione venga fatto con la massima tutela della salute del donatore. Quindi selezionano in base a criteri adottati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Direttore, sicuramente questa tragedia sottolinea quanto sia importante avere il sangue a disposizione per affrontare delle emergenze, no? Dei bisogni straordinari, ma il bisogno di sangue esiste tutto l'anno, e l'estate è una stagione particolarmente a rischio. Quindi l'invito è per tutti i donatori che vivono anche nelle altre regioni di continuare a donare. Continuare a donare, passare dalle strutture trasfusionali a donare il sangue, ma mi consenta anche il plasma, prima di andare in ferie, pianificando però questa loro donazione in accordo con le associazioni del volontariato e le strutture trasfusionali stesse. Allora, direttore, noi la ringraziamo per essere stato con noi, quindi l'emergenza, no? non c'è, tutte le richieste sono state soddisfatte. Ricordiamo, perché alcuni ascoltatori ci scrivono, un ascoltatore in particolare: sono solo 50 feriti, ma il sangue è veramente prezioso, serve per tanti interventi, di sangue ce n'è davvero bisogno, e i feriti possono aver bisogno di trasfusioni e di interventi che richiedono tanto sangue, direttore. Anche nei giorni successivi, certo, è per questo che diciamo la donazione va programmata, perché il fabbisogno al momento è totalmente sotto controllo, però nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori esigenze, ma queste verranno comunque rese note e governate dalle strutture trasfusionali, dalla struttura in particolare in Puglia regionale di coordinamento per le attività trasfusionali, di concerto con il mondo del volontariato. E quindi ringraziamo come sempre i donatori all'ascolto che seguono tanto Cuore Denari. Dimmi. No, stavo pensando magari di rileggere, visto che, come hai visto, ci sono ascoltatori simpatici che dicono che ho letto un po' troppo velocemente il codice IBAN del nostro conto corrente, appunto, su cui è possibile aderire per fare la sottoscrizione magari al volo, poi lo rileggo un po' più lentamente. Volentieri. Mm. Allora, grazie al dottor Liumbruno, direttore del Centro Nazionale Sangue, Istituto Superiore di Sanità. Buona giornata. Grazie a voi ancora. E buona giornata, buon proseguimento. Allora, la sottoscrizione promossa dalla Gazzetta del Mezzogiorno a favore dei feriti e delle famiglie delle vittime della tragedia ferroviaria verificatasi ieri in Puglia, il codice IBAN appunto per la sottoscrizione, il conto è stato aperto presso la Banca Popolare di Bari, è il seguente, quindi prendete carta e penna, altrimenti poi lo potete trovare sui nostri profili Facebook, è IT di Italia 56 L di Livorno 054 240 401 000 000 25 00 107. Causale sottoscrizione a favore delle famiglie delle vittime dello scontro fra treni il 12 luglio 2016. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade italiane. Cuore e denari. E prima dei saluti e della conclusione di questa prima parte di Cuore e denari, allora intanto un'occhiata alla borsa. Oggi abbiamo una situazione contrastata in Europa con Parigi che è positiva per lo 0,18%, abbiamo negativa Francoforte, meno 0,18%, Londra più 0,07%, Milano perde lo 0,70% perché ancora una volta abbiamo una situazione molto differenziata sui titoli del settore bancario. Scendono praticamente quasi tutti, UbiBanca meno 4%, Pop Emilia Romagna meno 3,7% insieme al Banco Popolare, oggi scende di 3 punti. Anche Telecom e Pop Milano meno 2,45, vola invece Monte dei Paschi più 10 punti percentuali e mezzo. Per il gruppo, come sapete, si profila l'intervento del fondo Atlante che starebbe trattando per comprare 10 miliardi delle sofferenze appunto di MPS, quei 10 miliardi che la BCE ha chiesto di smaltire abbastanza rapidamente prima addirittura che possano potenzialmente scattare le regole del bail-in per il gruppo senese. Quindi su questa prospettiva il titolo ha preso il volo e tratta a 34 centesimi. Oggi va bene anche Luxottica più 2,34, Saipem più 2, Mediobanca più 1,75, segnalo che ieri a Wall Street si è avuta un'altra seduta record e poi tra poco, sempre per quello che riguarda l'Italia, il Tesoro offrirà in asta BTP a 3, 7, 15 e 20 anni per un importo compreso fra i 5,5 e i 7 miliardi e mezzo di euro. Come sapete, nella nostra rassegna stampa ci piace dare spazio alle iniziative di educazione finanziaria che vengono realizzate in tutta Italia. Questo, tra l'altro, è un momento particolarmente caldo per l'argomento, anche perché alla luce di tutti i fatti che continuano a ripetersi, dalle obbligazioni subordinate delle famose quattro banche risolte, alla scarsa conoscenza che molti italiani hanno del funzionamento dei prodotti finanziari che sottoscrivono e tanto altro, ecco, alla luce di tutto questo si sta discutendo di provvedimenti di legge, questo sta accadendo per la verità da molti anni, ma è maturato ben poco, e l'ultimo è il disegno di legge numero 1196, provvedimenti che introducano nel nostro ordinamento norme per l'educazione alla cittadinanza economica. Un bel concetto questo, no Nicoletta? E anche se molti non vedono ancora i risultati appunto di tutti questi progetti, in Italia c'è invece un'ampia offerta di iniziative di educazione finanziaria. Ne fanno le associazioni dei consumatori, ne fanno addirittura in via individuale molti consulenti finanziari sul territorio, le fanno tante associazioni, addirittura le università della terza età. C'è un grande fermento nel mondo della scuola e delle ricognizioni costanti vengono condotte dalla Banca d'Italia, che peraltro proprio nell'ambito della discussione di queste iniziative di legge si candida a diventare istituzione di coordinamento di tutte queste iniziative. Allora, proprio ieri sono stati diffusi i risultati dell'ultimo anno scolastico di Economicamente metti in conti il tuo futuro. Questo è un progetto di educazione finanziaria che è rivolto alle scuole superiori di secondo grado, realizzato dall'ANASF, l'Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari, anche se, se non mi ricordo male, l'organizzazione preferirebbe non dire più per esteso appunto tutta la dicitura appunto che sarebbe dietro ad ANASF. Adesso magari dalla persona che intervistiamo stamattina ci facciamo spiegare bene, in collaborazione con Progetica, che è un'altra società appunto di consulenza che peraltro anche noi interpelliamo spesso per invece orientarci nel mondo della previdenza e delle pensioni, che pure è molto complicato. Buongiorno a Germana Martano, direttore generale di ANASF. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Abbiamo solamente un paio di minuti perché abbiamo dato spazio appunto alla Puglia. È vero che non devo dire più per esteso ANASF, che cosa c'è? Allora, ANASF non è più l'acronimo esatto, ecco, di quello che era ai tempi. Nel tempo questa professione ha subito cambi di denominazione, l'ultimo dal 1 gennaio di quest'anno è consulenti finanziari. Quindi chiamaci come preferisci, il tema è che siamo l'associazione nazionale di quelli che fino all'anno scorso erano promotori finanziari, che oggi la legge chiama consulenti finanziari. Allora, rifacciamo l'ABC invece di economicamente metti in conto il tuo futuro, questa iniziativa di educazione finanziaria che avete portato nelle scuole superiori di secondo grado. Con che modalità vi siete presentati nella scuola e su quali temi avete stimolato i ragazzi coinvolti? Allora, noi siamo presenti dal 2009 con il progetto e i risultati di cui accennavi all'inizio sono che quest'anno siamo stati in 91 scuole per un totale di 1400 studenti. Il progetto si svolge partendo dai principi che possono meglio coinvolgere ragazzi di 16-17 anni, e quindi sono un po' lontani dai temi economici, e il tema principale è la loro paghetta e i loro obiettivi di vita. Quindi sostanzialmente si snoda in 4-5 lezioni a seconda della disponibilità dei docenti delle classi per raccontare al ragazzo e far immaginare quella che sarà la sua vita futura, quindi collegando a ogni momento della sua vita delle esigenze finanziarie, che vanno ovviamente in primis dalla carta di debito per arrivare fino all'investimento. Il ragionamento che vogliamo portare ai ragazzi, perché è un po' difficile stimolarli su concetti ancora molto lontani da loro, per esempio come la pensione, è quello di farli ragionare su quelle che sono le tappe della loro vita e le domande che devono essere in grado di porre nel durante della loro vita. Germana, quali scuole sono state coinvolte? Nel senso che se ce ne fosse qualcuna all'ascolto, un preside all'ascolto, che magari l'anno prossimo vorrebbe portarvi nella sua scuola, che cosa deve fare in 30 secondi? Ce la facciamo a dirlo? Si deve scrivere a formazione@anasso.it oppure contattare i nostri numeri telefonici che sono presenti sul sito. Noi troveremo il formatore della sua città più vicino, che potrà andare a organizzare insieme alle esigenze delle diverse classi, dei professori, dell'orario scolastico, questi incontri. Li organizziamo per una, anche due classi insieme, e sono necessarie 4-5 sessioni, quindi 4-5 ore di un docente o anche di più docenti. Benissimo. Grazie a Germana Martano, direttore generale dell'ANASF, che ci ha ricordato come è andata l'ultimo anno di Economicamente metti in conto il tuo futuro. Adesso c'è il giornale radio, ma noi con Nicoletta ritorniamo subito dopo. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a un'Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Cuore e denari. Siamo ritornate, eccoci qua di nuovo. Eccoci qua. Allora, buongiorno a tutti. Come prima, chi ci ha raggiunto anche solo ora, esatto, siamo a Cuore Denari, benvenuti. Anche se siete un po' in ritardo, noi vi accogliamo sempre molto volentieri. Allora, con il cuore piccolo piccolo per la tragedia pugliese, noi oggi avevamo in programma di trattare il tema sicurezza sulle strade. Abbiamo deciso di lasciarlo proprio perché, a parte le fatalità della vita che sono del tutto imprevedibili e ingestibili, abbiamo detto tante volte che ci sono degli aspetti però della nostra vita di viaggiatori che possiamo certamente tenere sotto controllo, a cominciare dall'uso responsabile dell'auto. Perché ne parliamo proprio oggi? Perché ieri a Roma sono stati presentati da Assogomma e Polizia Stradale i risultati dell'indagine Vacanze Sicure 2016. Si tratta di un progetto che va avanti dal 2003, che fornisce una panoramica sullo stato delle gomme in circolazione nelle nostre strade, e quest'anno se ne sono scoperte davvero delle belle di anno in anno. Insomma, l'indagine viene condotta ormai da un bel numero di anni, ma non è che si vada in una situazione di miglioramento, Nicoletta. No. Anzi, se possibile, andiamo a peggiorare ogni anno, e questo lo sa con grande dispiacere Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, che salutiamo, ormai un caro amico di Cuore Denari, benvenuto. direttore. Buongiorno a tutti. Bentornato. Allora, intanto, grazie. Naturalmente io ai nostri ascoltatori, come sempre, indico il nostro numero verde, l'800 24 00 24, questo lo dico nella maniera regolare invece dell'IBAN di prima, tanto ormai lo conoscete, non c'è bisogno che lo dica lentamente per prendere appunti. Viaggerete in auto quest'estate? Avete provveduto alla manutenzione oppure no? E se non l'avete fatto, è un problema di costi oppure siete colpiti come sempre da un'amnesia improvvisa che vi porta a trascurare la qualità dell'auto e delle gomme, dei pneumatici sui quali viaggiate? Allora, Bertolotti, ci siamo trovati spesso a commentare questi dati, andiamo all'indagine 2006, mi pare che i risultati siano un po' più preoccupanti del solito, ce lo dice lei per quale motivo? Assolutamente, il 2016 queste 5, anzi 6 regioni controllate, Lombardia, Veneto, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Sicilia, purtroppo danno un risultato sconfortante, cioè un raddoppio delle non conformità, per esempio dei pneumatici lisci in queste regioni, in alcuni casi addirittura è triplicato il numero, stiamo parlando di una media del 7%, ma che ne so, la provincia di Milano c'è una percentuale del 13% di vetture che hanno pneumatici lisci. Se poi si considera la complessità delle non conformità relative ai pneumatici, si arriva ad avere una percentuale che è 1 su 5, cioè una vettura su 5, ne sono state controllate quasi 12.000, certo, aveva questo tipo di problema. Ecco, infatti le avrei chiesto proprio, tanto per dare un valore a queste percentuali, quante sono le auto che fermate e controllate, cioè quelle che ferma la polizia stradale. Quindi per esempio in Lombardia che numero abbiamo? In Lombardia abbiamo una percentuale veramente elevata, 1 su 5, ma a Milano la percentuale addirittura diventa 1 su 4. Quindi adesso non voglio continuare sul discorso milanese, ahimè, perché io sono milanese, i milanesi sono sempre convinti di essere al in centro, una condizione migliore rispetto agli altri. Ahimè, non è così purtroppo. E quindi vedi che come li bacchetta. Esatto. Allora Bertolotti, quando è che definiamo una gomma, un pneumatico liscio? Come avviene questa, tra virgolette, misurazione? Ma il pneumatico è liscio quando ha una profondità di scolpitura, cioè il suo battistrada è inferiore al millimetro e 6 per quanto riguarda le vetture. Abbiamo la possibilità di rilevare questo spessore battistrada semplicemente guardando a delle specie di ponticelli che ci sono in 6 punti della vettura. Quando il piano del battistrada è all'altezza del ponticello, vuol dire che abbiamo raggiunto il millimetro e 6. Oppure, molto più banalmente, prendiamo una moneta da 2 euro e sappiamo tutti che ci sono due colorazioni, quella, la differenza tra la colorazione argento e quella oro è lì, è più o meno un millimetro e 6. Quando siamo arrivati a quel livello lì vanno cambiate. Ecco, le gomme vanno cambiate, vanno il test dei 2 euro, poi non spenderemo 2 euro perché molti ascoltatori ci scrivono che è tutta colpa della crisi, della mancanza di un lavoro, le persone non hanno più soldi, i prezzi sono sempre più alti e quindi le norme non vengono rispettate proprio per una mancanza di, come dicono i milanesi, di danè. Allora, magari se però ci troviamo in una condizione di questo tipo, usiamola nella maniera più limitata possibile. Tra l'altro, in realtà per un momento, Bertolotti, volevo tornare al risultato della vostra indagine a Vacanze Sicure 2016, ma chi viene pizzicato in una condizione di tenuta gomme irregolare, che cosa gli succede? Ma certamente, allora la prima cosa che gli succede è che può perdere di aderenza al suo veicolo, quindi ha dei problemi di sicurezza stradale a prescindere poi dalla sanzione pecuniaria che gli può essere comminata dalla forza dell'ordine. Che ne so, a fronte di pneumatici lisci la sanzione è poco più di 80 euro per 4 gomme, quindi diciamo una banalità, però quella situazione può essere aggravata in caso l'autovettura è vista circolare in autostrada, perché scattano anche altre sanzioni pecuniarie e sottrazione di 2 punti di demerito. Ma direi che questi aspetti sono relativamente importanti rispetto a una vacanza sicura, certo, ad una sicurezza stradale. Cioè, chi è in condizioni anomale con questi pneumatici che sono mal combinati e si trova veramente a passare un brutto guaio, potenzialmente, ovviamente non ha una certezza assoluta, ma ha un rischio. Noi stiamo andando tutti in vacanze e non credo che nessuno voglia rovinarsi la vacanza semplicemente perché aveva delle gomme che sono lisce, al di là della sanzione, certo. Ma se perde di aderenza, c'è un temporale. Io mi trovo a Roma in questo momento, mi dicono che a Milano ieri, l'altro ieri... No, ma stamattina non le posso dire che cos'è venuto giù, guardi, in un attimo. Perfetto. Quindi non è che sia una straordinarietà trovarsi di fronte ad una stagione estiva dove ogni tanto succedono dei temporali. Chi ha pneumatici lisci sappia che innescherà il fenomeno dell'acquaplaning, cioè il galleggiamento sull'acqua e quindi la perdita di aderenza, certo, con tutto quello che ne deriva. Senta, a proposito ancora dei risultati di vacanze sicure, oltre ai pneumatici lisci avete anche riscontrato una percentuale molto alta di vetture con pneumatici non omogenei. Che differenza c'è fra i due concetti? Ma il non omogeneo vuol dire che su uno stesso asse vanno montati pneumatici identici. Identici che cosa vuol dire? Vuol dire la stessa marca, lo stesso modello, la stessa misura, le stesse caratteristiche prestazionali, cioè esattamente uguali. Non si possono montare gomme di diverso tipo sullo stesso asse. Bene, questa è la disomogeneità ed è in percentuale significativa che si aggiunge all'equipaggiamento misto, vale a dire due gomme invernali sull'asse trattivo e due gomme estive al posteriore e viceversa, anche in questo caso, che comunque non è vietato ma è sconsigliato dal Ministero dei Trasporti, mentre quello precedente è vietato e sanzionato, attenzione anche con la possibilità di sequestro cautelativo del mezzo, perché può essere veramente pericoloso. Quindi questa percentuale è una percentuale che ahimè è aumentata ed è raddoppiata anche in questo caso, parliamo di percentuali nell'ordine del 6% delle autovetture controllate. In buona sostanza, l'automobilista si trova a cambiare una gomma e mette la prima gomma che gli capita. E il perché fa questo? Certamente uno degli elementi può essere, come diceva prima qualcuno, è un fatto legato alla crisi. Certo, c'è una scarsa disponibilità economica e quindi al di là della sensibilità e della comprensione sulla sicurezza, ma uno ha una scarsa disponibilità di spesa e quindi a questo punto risparmia. È un risparmio che può essere pericoloso, quindi basterebbe che il nostro paese, il nostro governo si mettesse la mano sulla coscienza prima che succedano fatti. E cosa dovrebbe fare secondo lei? Molto semplicemente, allora, il parco delle nostre vetture sta invecchiando in maniera drammatica. Più del 52% delle vetture che sono in circolazione ha più di 10 anni di vita. E quanto più è vecchia una vettura, lo vediamo, quanto più è malmessa da un punto di vista di manutenzione e di pneumatici. Beh, non basta solo consentire agli automobilisti di poter mettere in deduzione le loro spese che per quel che riguarda la sicurezza stradale, la manutenzione, certo, del veicolo. Ma insomma, abbiamo la possibilità di mettere in deduzione l'acquisto, il 50% della spesa per l'acquisto di un divano, per l'acquisto del rifacimento di una doccia, perché no? E quindi insomma stimoli fiscali per rinfrescare il parco auto. Peraltro lei in realtà questo ce l'ha sempre raccontato, è un'indicazione che abbiamo sempre dato ai nostri ascoltatori, che però fa un po' pugni con quell'altro dato che invece stiamo raccontando da molti mesi a questa parte, in cui abbiamo una crescita di matricolazioni di auto nuove che pure sta andando abbastanza spedita, appunto, Bertolotti, e quindi però il ricambio non è evidentemente sufficiente a fronte del nuovo che viene acquistato. Comunque il parco del vecchio rimane altrettanto consistente. È proprio così. C'è un aumento del numero delle immatricolazioni di nuove vetture rispetto al passato, anche se siamo ancora lontani dai picchi in termini di numero di immatricolazioni, però non tutto questo non fa seguito ad una radiazione delle vetture vecchie. Il risultato è che aumenta il numero del parco macchine in circolazione immatricolate. Oggi ne abbiamo qualcosa come 37 milioni e 300 mila e quindi non viene fatta la manutenzione con tutto quello che ne deriva. Allora, no, adesso intanto ovviamente come sa Bertolotti, perché lei ci è venuto a trovare spesso qua, siamo sempre capaci di scatenare delle discussioni a dir poco pittoresche fra i nostri ascoltatori. Un ascoltatore ci ha mandato via WhatsApp l'immagine, la foto, e dice che il bordo dei due metalli in una moneta da 2 euro è di 4 mm, non 1,6. Quindi quella prova che lei ha suggerito, secondo il nostro ascoltatore, non va bene. Che dice, no, che dice Bertolotti? Ma allora, questo è convenzionalmente quello che dicono in tanti. Dopodiché è chiaro che voi avete, cioè tutti gli automobilisti hanno delle gomme, hanno i cosiddetti ponticelli, o in inglese TWI, Tread Wear Indicator, cioè sono dei ponti all'interno dei principali canali, quindi dei tre o quattro canali più ampi del pneumatico sul battistrada. Quando il piano di questi ponticelli arriva ad essere all'altezza del battistrada, vuol dire che abbiamo raggiunto il 1,6 mm. Questo è tecnicamente l'aspetto che va considerato. Adesso vediamo se siamo in grado di controbatterlo, vediamo un po'. E sono 6 punti, in ogni pneumatico ci sono in 6 punti questi ponticelli, certo. Quindi è una cosa che è anche visivamente abbastanza semplice e tecnicamente valida. Dopodiché se uno vuole andare oltre, si può prendere uno spessimetro, cioè un profondimetro, e andare a misurare lo spessore. Che è quello che ha preso l'ascoltatore che ha mandato la foto. Ma questa è un po' la stessa discussione, mettiamo che sia amichevole, che si scatena quando Bertolotti, sempre con lei, affrontiamo il tema del cambio stagionale dei pneumatici. Sì. No? Tra tutta la lettura che gli ascoltatori giustamente danno delle norme locali che regolano e disciplinano appunto questo cambio, c'è poi tutta invece la di buon senso che dovrebbe guidare appunto la gestione e la manutenzione delle nostre auto. Però forse vale la pena, tra un po' dobbiamo salutarla, di ricordare come ultima domanda quali sono gli intervalli di tempo dopo i quali intanto le gomme devono essere sostituite. Appunto, a livello stagionale, chi ha l'obbligo assolutamente di sostituire i pneumatici e in questo periodo naturalmente passare dall'invernale all'estivo? Ma allora, coloro i quali hanno pneumatici con caratteristiche dimensionali e prestazionali come la carta di circolazione, che siano estivi che siano invernali, hanno la possibilità di circolare tutto l'anno senza poter incorrere in sanzioni. Quando ci sono in vigore le ordinanze, sappiamo che c'è un periodo che va dal 15 di novembre al 15 di aprile, poi solo per il periodo invernale c'è la possibilità di montare pneumatici invernali con un codice di velocità più basso un mese prima e un mese dopo, fino al 15 di maggio. Quindi, in buona sostanza, chi in questo momento ha montato pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore a quello che è previsto da carta di circolazione non può più circolare. E se viene trovato a circolare è sanzionabile. Attenzione, le sanzioni qui sono importanti, perché in buona sostanza si va a infrangere quello che è una regola, che sono le caratteristiche costruttive del veicolo, certo. Cioè si va a manomettere il veicolo e quindi si crea una situazione di pericolo. Le faccio sentire intanto Luca dalla provincia di Treviso, perché ritiene che c'è una tipologia, ovviamente un danno, un problema ai pneumatici che è addirittura peggiore di quelli lisci. Luca, buongiorno. Buongiorno, complimenti per il salotto innanzitutto, per il buon salotto. Io ho appena cambiato i miei pneumatici della macchina perché sto per andare in ferie. Bravo, intanto ci faccia sognare e ci dica dove va. La di un Puglia nel Salento. Benissimo, salutiamo ancora a maggior ragione oggi gli amici della Puglia. Luca, quindi? Niente, una cosa, che io avevo le gomme che erano ancora, diciamo, nuove come battistrada, perché è una macchina che usiamo poco, però le gomme erano secche, erano completamente screpolate. No. E quindi, sì, battistrada, ma secondo me una cosa importante è anche guardare lo stato della gomma, perché le gomme scadono. Guardi, lei è il miglior sponsor possibile dell'attività di Assogomma, Fabio Bertolotti. No, direi proprio di no. Ah, no. Come no? Cioè, secche non vanno, secche vanno bene? No, perché non è secche, allora, è screpolate. Il fatto della durata della gomma legata, diciamo, a una prestazione, questo è un qualcosa che francamente non corrisponde, nel senso che come ha fatto il vostro ascoltatore a stabilire che erano secche, con quali criteri tecnici lui ha sentenziato. A noi ci sembrava così prudente e previdente, lei addirittura gli contesta. Ce lo smonta così. Ecco, ma non vorrei, allora, noi non... Secca non perché si vede, è un po' sciupatella. Allora, che la gomma sia sciupatella mi fa abbastanza sorridere, mi fa, diciamo, piacere che ci sia un'attenzione nei confronti dei pneumatici, però attenzione a non prendere per buono determinate informazioni che sono volte semplicemente a una sostituzione del pneumatico. I pneumatici vanno sostituiti quando hanno terminato la loro vita, cioè quando hanno uno spessore del battistrada che è inferiore al limite di legge 1,6 mm, poi quando hanno dei danneggiamenti visibili ad occhio nudo, cioè quando sul fianco del pneumatico compaiono dei tagli, ma non delle screpolature, dei tagli, delle ernie, delle bozze, che sono praticamente la combinazione di due fattori: pneumatico sgonfio dall'alto, da un lato, urto contro un marciapiede piuttosto che una buca. Il tutto comprime la spalla, cioè la parte che vediamo del pneumatico, che viene, diciamo, sollecitata in maniera anomala fino alla rottura di quelle che sono le tele interne. Ecco, questo, è un problema serio, perché attenzione, adesso che abbiamo condizioni di temperature elevate, quel fenomeno è l'anticamera del cedimento strutturale, cioè dello scoppio. Se avete gomme in quelle condizioni vanno immediatamente sostituite. Grazie, grazie a Fabio Bertolotti per essere stato con noi con i suoi suggerimenti pratici, per averci presentato Vacanze Sicure 2016. Abbiamo scoperto che anche il pneumatico ha una spalla, Nicoletta. E tra l'altro un ascoltatore dice che in moto si sente molto la differenza tra uno vecchio e uno nuovo. E quindi ricordiamoci anche dei motociclisti. Assolutamente. Quindi che vuoi sentire Bertolotti o lo abbiamo già salutato? Oppure magari dedichiamo una puntata solo ai motociclisti? Sì. Bertolotti. Agli arleisti, a me piacciono molto. Noi possiamo dedicare sicuramente una puntata a chi, diciamo, meglio credete, quindi anche i motociclisti, perché di pneumatici quindi li presentiamo per qualsiasi, da quello che è il ciclista a quello che è chi corre col kart, perché sono sempre comunque delle gomme. Sono situazioni diverse e quindi che vanno trattate in maniera corretta, singolarmente. La cosa più importante però è controllarle e farle controllare da uno specialista, da un gommista. Non andiamo, cioè io se ho mal di denti non vado dal medico condotto, vado dal dentista, vado dallo specialista. Esattamente lo stesso deve avvenire per le gomme, si deve andare da un gommista che fa quello di mestiere. Grazie, grazie a Fabio Bertolotti, buone vacanze per qualunque posto sceglierà di andare. Bertolotti, adesso Nicoletta. Noi andiamo ai mercati e subito dopo facciamo i conti anche, sempre per la nostra sicurezza, non solo con le nostre gomme, ma anche con la sonnolenza diurna. Parleremo di risvegli, parleremo di sonnolenza, parleremo di colpi di sonno che, come dice il nome, arrivano all'improvviso. E quindi restate con noi, un'occasione anche per raccontarci se e come l'estate impatta, il caldo impatta sulla qualità del vostro sonno. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari. Deborah, c'è chi ha sonno e non può dormire, c'è chi vorrebbe dormire ma non ha sonno, insomma, in queste situazioni sono ugualmente molto fastidiose, comportano disagio, anche e soprattutto rischi per la nostra salute e per la nostra sicurezza. Perché sui danni nel breve e nel lungo periodo dell'insonnia abbiamo parlato più volte nel corso delle nostre trasmissioni e siamo pronti a tornarci oggi, guidati anche dalle domande che arriveranno al nostro numero verde 800 24 00 24. Ma dato che nella prima parte della trasmissione tu ci hai fatto salire in macchina, abbiamo parlato di gomme, di pneumatici, eccetera, rimaniamo in macchina e vogliamo affrontare come primo tema il rischio colpo di sonno, e lo facciamo con un grande esperto, il dottor Lino Nobili, che è responsabile del centro di medicina del sonno all'ospedale Niguarda di Milano, che è tornato a trovarci. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora dottore, intanto io credo che sarebbe utile capire esattamente che cosa intendiamo per sonnolenza e distinguerla dalla stanchezza, perché noi tendiamo a considerarle come se fossero la stessa cosa, invece voi medici le tenete opportunamente separate. Sì, anche se in realtà questo è uno degli argomenti più difficili, nel senso che si discute molto tra noi esperti qual è la definizione migliore di sonnolenza e fatica, stanchezza, quali sono le divisioni tra le due, spesso, come dice, vanno insieme. Dipende ogni volta dal contesto di cui stiamo parlando. Ad esempio, in questo caso, se parliamo di guida, probabilmente la definizione migliore di sonnolenza è quella propensione al sonno che noi abbiamo in quel momento, la difficoltà che facciamo per resistere al sonno, mentre la fatica non necessariamente indica una propensione al sonno, si può essere molto stanchi senza però riuscire ad addormentarsi. Quando insomma mentre facciamo fatica a tenere la palpebra su, cioè ci cade la palpebra. Il problema del colpo di sonno è che qualche volta non è detto che ci sia così la percezione così evidente. Quel dato che avevate detto all'inizio, sì, il colpo di sonno è la causa di incidenti alla guida. Il colpo di sonno sicuramente è una causa molto frequente, ma anche tutta quella fase legata intorno alla sonnolenza, quella fase in cui il soggetto ancora dice ce la faccio, non ho ancora così sonno. In realtà già in quel momento lì le sue performance sono molto alterate. Quindi quando arriva il colpo di sonno è il momento finale di un percorso in cui siamo stati a rischio, perché il nostro cervello era, mi passi il termine, già in parte addormentato? Esattamente, cioè il processo avviene lentamente e poi alla fine c'è il colpo di sonno e quella è la parte più drammatica, perché poi il colpo di sonno fa sì che l'incidente sia un incidente senza frenata e quindi è un incidente spesso anche mortale. Ma molto tempo prima, minuti prima, il cervello è già entrato in una fase di sonnolenza in cui alcune sue parti molto probabilmente non funzionano già più come se fossero veramente dormienti e i tempi di reazione sono completamente alterati. Quindi il rischio aumenta già molto tempo prima, bisogna fermarsi molto tempo prima, quindi qua, appena si avverte la situazione di sonnolenza bisogna fermarsi e riposarsi. Ecco, io inviterei i nostri ascoltatori, tanti dei nostri ascoltatori ci seguono mentre sono alla guida, sì. E allora di raccontarci un po' le loro esperienze, ci sono persone che hanno proprio sulle spalle non chilometri e chilometri. Non scrivendo il messaggino ma chiamandoci naturalmente. Chiamandoci all'800 24 00 24, se si sono trovati in questa situazione, che cosa stanno facendo, come cercano di proteggere la sicurezza dei loro viaggi, gomme a parte, perché la qualità del sonno, abbiamo detto, è molto importante. Ma dottor Nobili, il colpo di sonno può avere tante origini, tante cause, le vogliamo magari ricordare quelle che hanno una evidenza? Sicuramente il colpo di sonno è più frequente se viaggiamo di notte. Certo, cioè noi abbiamo delle propensione al sonno. Ecco, certo. Ci sono delle cause che noi andiamo naturalmente a individuare anche solo col buon senso. Se uno guida di notte, quando invece solitamente a quell'ora è abituato a riposare, probabilmente è più soggetto a un colpo di sonno. Ma ci sono anche altre cause che voi avete ben individuato. C'è un profilo, no? Di una persona che potrebbe essere più a rischio di colpi di sonno. Nell'ambito la prima causa è la deprivazione di sonno, quindi certo. lo stile di vita. L'altra sono delle patologie del sonno, la più frequente ad esempio chi ha le apnee notturne è un soggetto che ha un aumentato rischio anche 10 volte superiore a quello della popolazione generale di avere un colpo di sonno, un incidente legato alla sonnolenza. Ecco, e qua apriamo un altro capitolo, perché sulle apnee bisogna fare molta chiarezza. Non sempre le persone riescono a avere la consapevolezza di soffrire di apnee notturne, magari anche se dormono vicino a un compagno, ad una compagna. Tendiamo a confonderle con il russamento. In realtà sono due problemi diversi, dottor Nobili. Non è detto che il russatore abbia apnee notturne. Esattamente, il russamento è generalmente il primo passo. Il ronf-ronf, ecco. Il ronf-ronf è quando diventa intermittente con delle pause, vuol dire che sono cominciate delle apnee. E a questo punto il disturbo diventa serio, nel senso perché le apnee possono alla fine frammentare in funzione del numero il sonno, come avere continui risvegli. Sono persone che fanno una apnea al minuto, anche più di una al minuto, e questo vuol dire avere una frammentazione notevolissima, pur magari dormendo alla fine 7-8 ore. Tipica persona che si sveglia mattina, ha dormito 7-8 ore, ma si sente stanca dopo 10 minuti. Per questo la qualità del nostro risveglio e anche la qualità della nostra giornata, il grado di se avvertiamo sonnolenza, se ci sentiamo stanchi, può essere un indicatore prezioso della qualità del nostro sonno, dottor Nobili. Ma certo, già al mattino uno ha la percezione di come ha dormito. E questo chiaramente dipende da tanti fattori, dalla quantità di sonno e dalla qualità. Quello che deve immediatamente far accendere un po' il campanello d'allarme è che se uno dorme le sue 7-8 ore regolarmente, ma si sveglia stanco e di giorno è stanco, c'è qualcosa che non va nel suo sonno. Bisogna fare degli accertamenti che sono solo strumentali, bisogna fare degli esami, bisogna fare la cosiddetta polisonografia. Che individua, no, da un quadro preciso della situazione. Un ascoltatore ci scrive: autista di linea da 37 anni, il colpo di sonno più pericoloso è quando sei a pochi chilometri dalla destinazione, tanto sei già arrivato. Questo ci scrive Roberto. Dottor Nobili, uno pensa di essere arrivato, si rilassa un pochino, l'attenzione scende, basta poco, ed ecco che il colpo di sonno si presenta. Non c'è modo di prevenirlo, il colpo di sonno, oltre che nel momento in cui avvertiamo una certa stanchezza, una sonnolenza, fermarci nella piazzolina e farci una dormita? Ma guardi, bisogna anticiparlo, bisogna veramente anticiparlo prima, facendosi la dormita. Adesso poi ci sono anche dei dispositivi in molte case che producono automobili, stanno cercando di, non so, anche lei avrà quella che gli dice stai guidando da 2 ore, fai una pausa, ci sono tanti, ormai se ne occupa di questo, ma la persona che guida è lui che deve assolutamente rendersi conto molto tempo prima che è ora di fermarsi. E quello che dice appunto l'ascoltatore è proprio tipico, dice sono quasi arrivato, ormai ce la faccio. E il problema è quando si sopra la soglia, da sonnolenza, quindi da la situazione che è ancora fluida, diventa immediata. Il passaggio da veglia a sonno a quel punto può diventare immediato. È più frequente di quello che si possa immaginare il colpo di sonno. Ci stanno arrivando tanti messaggi via WhatsApp, ve ne leggo uno. 30 anni, 2 anni fa mi è capitato che guidavo di notte, non avevo sonno, ma il mio compagno non si sentiva sicuro perché lui aveva sonno e voleva assicurarsi che non mi sarei addormentata alla guida. Insomma, mi ha costretto a dormire. Dopo 3 ore ci siamo svegliati, ero certa di essere sveglia, mi sono rimessa alla guida. Tuttavia, dopo mezz'ora, boom, di nuovo, mi sono addormentata completamente. Per fortuna ero in coda, ma mi sono spaventata tanto. Dottor Nobili. Queste sono situazioni estremamente frequenti. Io molto spesso vedo pazienti che arrivano nel nostro ambulatorio dopo aver fatto il primo o il secondo incidente, ed è un aspetto cruciale questo, di cui penso che se ne preoccupa troppo, sì, poco, ma in realtà se ne preoccupa perché tutte le volte che affrontiamo questo tema sembra un po' di fare le maestrine, no? Breaking News. Buongiorno a tutti, 11:43 minuti 42 secondi, interrompiamo le trasmissioni per la notizia della morte di uno dei capi della mafia, cioè Bernardo Provenzano, detto Binnu, un criminale italiano che è stato membro di Cosa Nostra dall'inizio. È stato arrestato, lo ricordo, l'11 aprile del 2006 a Corleone all'interno di una masseria per le indagini sulle stragi più efferate avvenute nel nostro paese. Le ultime, ve lo ricordo, quella che aveva colpito il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992, e sempre quella strage successiva che aveva colpito invece Paolo Borsellino. La mente, insieme a Totorina, a Bagarella e ai fratelli Graviano, delle stragi del 1993, quelle dal maggio fino al luglio del 1993, tra Via Palestra, Via De Gergofili, Via Fauro. Muore dunque un pezzo della vecchia mafia, era stato, pensate, latitante per oltre 40 33 anni, era stato ricercato fin dal 10 settembre del 63, era già stato condannato in contumacia a 3 ergastoli, aveva moltissimi procedimenti penali quando nella masseria Corleone entrò nelle maglie dello Stato. Naturalmente sulla morte di Provenzano sentirete nelle prossime edizioni del giornale radio servizi, collegamenti e naturalmente il significato anche della morte di questo uomo che è stato, lo ricordo, per molti anni ai vertici di Cosa Nostra. E noi andiamo subito agli aggiornamenti sul traffico e poi ritorniamo subito insieme con il dottor Nobili. Qualità del nostro sonno: il sonno è il nutrimento della nostra salute e protegge anche la nostra sicurezza. Tra poco. Cuore e denari. Russate, guidate, chiamatemi, ma fatevi sentire anche per raccontarci come dormite con il caldo di questi giorni, come ve la siete cavate e nel weekend vi riposerete? Pensate, di solito dormite meglio o dormite ugualmente male? 800 24 00 24, insieme a noi il dottor Nobili del Centro del Sonno del Niguarda di Milano. Dottor Nobili, abbiamo messo sicuramente un'attenzione particolare sulle apnee e quindi per individuarle è opportuno fare degli esami specifici. Non sempre le persone che russano vanno in apnea, ma l'apnea è un problema che va evidenziato e trattato perché mette a rischio la nostra salute, non solo la sicurezza in auto. Ho riassunto... Perfetto, è un esperto ormai, perfetto, assolutamente. Purtroppo perché russo anch'io, evidentemente. È un disturbo che influenza tanti aspetti della salute cognitiva e fisica di una persona, e quindi è chiaro, è una malattia che disturba e qualche volta distrugge il sonno, che rappresenta un terzo della nostra vita, quindi per forza ha delle implicazioni molto importanti sulla salute generale. Può causare, può essere una delle tante cause del colpo di sonno, oltre naturalmente al debito di sonno, ma anche all'uso di alcol, ad esempio, dottor Nobili. Il colpo di sonno può essere, cioè, tra le varie cause, e qua tocca fare sempre le maestrine, ma vogliamo anche comunque sottolineare, vogliamo vietare alle persone di farsi l'aperitivo, piuttosto che avere la consapevolezza, ecco. che ad esempio anche quando l'alcol non è esagerato, è ancora a un livello diciamo normale, atteso in certi momenti della giornata, quando c'è una maggior propensione al sonno, l'effetto è molto più importante. E quindi può aumentare nettamente la sonnolenza, quindi bisogna considerare tutta una serie di aspetti. In più il messaggio che vogliamo mandare oggi è che la sonnolenza diurna è sempre la spia, no? È sempre una spia di una qualità del sonno non adeguata, di uno stile di vita che forse non è protettivo della nostra salute, quindi non ci si può trascinare con questo fardello un po' sulle spalle. La sonnolenza diurna non è normale, no, dottor Nobili? È sempre un segnale di qualche cosa che va messo trovato e messo a posto, e possiamo farlo. Anche la nostra qualità di vita migliora. Ma assolutamente, assolutamente. Per la sonnolenza diurna, a meno che un soggetto non abbia proprio uno stile di vita causato, che quindi deriva dalla deprivazione, quindi c'è un chiaro stile di vita. Se la quantità di sonno è nella norma, la sonnolenza diurna è sicuramente un indice di qualcosa che non va nella qualità del proprio sonno. Allora, se volete mettervi in contatto con noi, 800 24 00 24, abbiamo tempo di sentire Nicola da Padova e Agostino da Bergamo, e per tutte le vostre domande che non riescono a superare la barriera rosa, naturalmente cuoredenari@radio24.it. Nicola, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Ma io trovo moltissimo nell'analisi del medico, del dottore, che ha presentato questa motivazione sulla carenza di sonno. Io lavorativamente avevo un periodo molto complicato e quindi ho avuto un colpo di sonno che mi ha causato l'incidente con la macchina, mi sono incastrato sotto un camion, fortunatamente non è successo nulla. Da quella volta poi mi hanno fatto fare tutti gli esami di cui avete già parlato e effettivamente ho cambiato un po' lo stile di vita lavorativo, e quindi è un monito per tutti quelli che sono alla guida nel momento in cui hanno il minimo sensore di stanchezza e fermarsi in autogrill anche se si è quasi arrivato. Grazie, grazie Nicola, raccogliamo queste, no, queste raccomandazioni di buonsenso che sono ottimo. Molto utili, perché dall'esperienza degli altri non si impara, ma secondo me può servire. Agostino da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Stavo ascoltando con interesse la trasmissione, perché io sono l'emblema di quello che sta. Sono il paziente del dottor Nobili, perché praticamente. La portiamo subito, dottore, ci aspetti, arriviamo con Agostino. Sì. Perché? Praticamente. Fortunatamente non ho mai avuto incidenti, però mi succede questo. Anche dopo aver dormito 7-8 ore, mi metto in viaggio al mattino, appena salgo in autostrada, proprio dopo 10 minuti massimo di autostrada, ho problemi di sonno. Sono un russatore cronico, probabilmente anch'io, non ho mai fatto nessun controllo, però da quello che mi raccontano probabilmente soffro anche di apnee notturne. Allora Agostino, vede che gli incontri, a volte la vita, no, ci dà l'opportunità, no, con un incontro magari di dare un po' una svolta, e l'incontro forse col dottor Nobili, che ha spiegato, no, che cosa può comportare anche l'apnea, il russamento, la differenza, magari è stato illuminante per Agostino. Quindi dottor Nobili, ad Agostino e alle persone che si ritrovano nella condizione di Agostino, L'invito è quello di farsi vedere da un centro specializzato, dove quasi sicuramente poi faranno un esame, quello che abbiamo detto, la polisonografia, che permetterà proprio di quantificare il numero di apnee e l'impatto di apnee sulla struttura del sonno. Quello che diceva lui è proprio un test. La sonnolenza poi è in autostrada, tipicamente l'autostrada è un test che ci dice se la sonnolenza è patologica o meno. 10 minuti di autostrada, se arriva la sonnolenza c'è qualcosa che non va. Ecco, questa è una sorta di autotest che possiamo, no, somministrarci. Quindi se dopo 10 minuti in autostrada avete già sonno, come Dario, che ci sta dicendo che stiamo facendo venire sonno, e quindi speriamo che non sia alla guida. Quindi su Dario, forza, e se non vuole seguirci segua un'altra radio. Grazie al dottor Nobili, la ringraziamo per la chiarezza. Se avete ancora delle domande, richieste, cuoredenari@radio24.it. Noi torniamo come sempre assolutamente domani saremo puntualissime, come nella puntualità che sempre ci domani contraddistingue. Domani si va a scuola. Domani si va a scuola di risparmio. Tu hai già qualche cosa invece da anticipare ai nostri amici? No, delle ricerche interessanti. Molto e bene. Poi come sempre l'attualità ci guiderà nella scelta. A domani. A domani, buona giornata.